1969 per questo live Electronic Music Improvised da parte appunto di AMM, lo dico all'italiano, potrei dirlo anche all'inglese, storica appunto formazione che forma insieme a Gruppo di Nuova Consonanza e a MEV, che stavano appunto a Roma, seppur italianissimi, Gruppo di Nuova Consonanza, anche se poi incastrati come buona parte dei gruppi d'avanguardia dentro varie collaborazioni sempre comunque eccezionali. MEV, come dicevo prima, americani a Roma, innamorati dell'ambiente di Trastevere di quegli anni, di quell'underground appunto emergente, che aveva appunto un'emergenza, un'urgenza espressiva, che viene fuori appunto nell'Inghilterra di Cornelius Cardew, Federal Reschi, Richard Teitelbaum, mischiando insomma Bertoncini, Evangelisti, Morricone, eccetera, dentro una sorta di grande, insomma, di grande famiglia, seppur, come dicevo prima, anche con momenti anche di grande tensione, di scontro anche, e anche poi momenti di ripiegamento, di riflusso negli anni 70, diciamo che diventò altro lì, l'improvvisazione radicale, appunto andò dentro il rock, anche dentro faccende che appunto risultano anche così veramente a un'occhiata molto superficiale, appunto lontane, in realtà decisamente addentro a faccende che cambiarono di fatto la musica. Abbiamo sentito qua dentro AMM, dentro questo appunto improvvisazione live elettronica, momenti di quello che si può considerare un suono astratto, momenti anche lirici, perché no, se con lirismo si intende anche appunto questa urgenza, questa emergenza che si ha, che appunto viene poi espressa in termini musicali anche potenti, oppure momenti di noise, di impatto insomma musicale, momenti anche e soprattutto quelli di grande condivisione appunto legate alle musiche, legate a un linguaggio che appunto veniva composto insieme, eseguito insieme e appunto realizzato poi con tutto che anche tutte queste questi brani, se vogliamo considerarli tali, erano opere aperte. Esistono varie versioni, anche in questo senso poi informarono le varie psichedelie, se pensiamo a un pezzo aperto come Dark Star dei Grateful Dead, ogni volta un pezzo diverso, ma appunto prima citavo Astromind of Mine di Pink Floyd, che diventava sempre un'altra cosa, appunto prendendo anche da quello che era stato l'apertura, dal fatto che insomma queste menti così creative di fatto crearono musiche ex novo, aprendo veramente mille e ancora mille e ne apriranno ancora territori appunto sperimentabili in termini sia appunto di noise, di psichedelie, di musica lancinante così in generale, di comunque attitudini che vivono ad esempio anche nel progetto che questa sera inseriremo per Futuri Rumori, due americani che provengono per molti aspetti anche dall'ambiente legato appunto alle musiche improvvisative, con tutto quello che poi c'è stato anche in termini appunto di composizione, post-composizione elettronica, quindi anche montaggio, rimontaggio, quello che abbiamo sentito accennato anche prima dentro Credo di Gruppo di Nuova Consonanza, e quindi anche le musiche si vanno a disintegrare con quella sorta anche appunto di alia, di cage, di materiale che diventa altro, e in questo senso ovviamente essendo anche americani non si può insomma non citare chi di fatto ha disintegrato le musiche, facendola diventare veramente musica di una di grande vocazione, come appunto William Basinski, di fatto insomma Danny Clay, Clay, Greg Gorlan, prendono tanto anche appunto dal compositore, che tanto appunto deve a sua volta Cage, che tanto ha dato appunto a questi giovani improvvisatori degli anni 60, arrivando appunto ai nostri giorni e dentro Futuri Rumori, contenti sempre di presentare lavori di grande spessore, anche questo Brittle, tra l'altro composto dentro il progetto ancor più ampio di Canti Magnetici, che abbiamo ospitato già dentro Futuri Rumori, con altri progetti decisamente interessanti. La faccenda qua appunto va dalle disintegrazioni musicali delle musiche, quindi che si dissolvono, diventano altro, attraverso il tape, quindi la cassetta, anche qua un concetto che però poi viene di fatto materializzato e diventa cosa che è udibile, ascoltabile, quindi un disegno che sembrerebbe estremamente astratto poi diventa di fatto concreto, la disintegrazione del nastro, quindi del materiale fisico che viene quindi a diventare musica altra, in questo caso, in questo Brittle, ma in buona casi delle musiche appunto disintegrate, facendo un omaggio al grande William Basinski, passando appunto da Cage, eccetera. E Danny Clay, che proviene più che Greg Gorlan appunto dalla musica improvvisativa, ma anche dai momenti teatrali legati al teatro, per esempio per bambini, ecco qua un altro punto di collegamento senz'altro con Cornelius Cardew. Prima accennavo alla Scratch Orchestra, dove appunto erano previste anche l'improvvisazione, il gioco dei bambini. Greg Gorlan è più invece sul noise, il tape trattato come materiale di scarto che poi appunto possa essere creativo, e anche qua decisamente evocativo, una sorta di requiem, come scrivono appunto autoricensendosi, potremmo dire, quelli di Canti Magnetici, etichetta splendida, tra l'altro, che pubblica appunto questa, tra l'altro, cassetta, quindi, come dire, anche qua poi facciamo tornare un po' le cose, lasciando appunto quell'apertura che musiche che ovviamente si cimano di grande creatività hanno di fatto. E quindi andiamo a sentire questo Brittle dentro Futuri Rumori, stampato, se così si può dire, anzi prodotto in cassetta, in tape, in edizione limitata appunto da Canti Magnetici, da parte di questi due giovani americani, Danny Clay e Greg Gorlan, che appunto ci faranno, come dire, ci porteranno, ecco, dentro nuovi territori sonori, attraverso appunto la disintegrazione materiale dello stesso materiale su cui tra l'altro stampano appunto la loro musica, la tape music, appunto la nostra cassetta. Thank you. Thank you. Evocativo questo di questo Brittle da parte di Danny Clay e Greg Gorlan, questi due americani che riescono appunto a fare una, come dicevo prima, come hanno scritto bene dentro appunto Canti Magnetici, l'etichetta che li pubblica e che ha fatto appunto due righe di recensione, ma queste due righe sono decisamente interessanti anche nella descrizione e anche nel far rendere molto il lavoro, una sorta di requiem veramente per tape, per cassetta, una musica che porta insomma lontano, verso anche dimensioni quasi malinconiche, si potrebbe dire, con tanto appunto di quella matericità che si sente, che addirittura diventa appunto suono, come dicevo prima, attraverso le disintegrazioni del nastro stesso. Da Futuri Rumori, appunto, Danny Clay e Greg Gorlan, tra l'altro è un modo di sentire altri lavori di Canti Magnetici per i prossimi Futuri Rumori, senz'altro. Beh, per così far quadrare, ma poi in realtà avete capito come facciamo a quadrare i cerchi da queste parti, lasciandoli sempre piuttosto aperti, quello che fu un percorso eccezionale delle improvvisazioni improvvisazione nuova consonanza, di musica elettronica viva, di AMM, si arrivò, prima accennavo a varie faccende rock, anche in terra proprio di Germania, come a dire, non ci passarono lì per caso in nuova consonanza con appunto Deutsche Grammophon e Improvisationen, che ha aperto appunto questo 451 frammenti sonori, ma di fatto informarono quella generazione che poco più piccola rispetto a i vari evangelisti, Cornelius Cardio e Alvil Karran, che stavano creando quello che sarebbe diventato uno dei suoni più riconoscibili appunto nell'interno del rock, se intendiamo rock come linguaggio che appunto si apre, che sperimenta, non come appunto linguaggio che rimane lì e che vive appunto su un immaginario decisamente fermo, no? Se pensiamo a quanto revival rock già di fatto nascesse immediatamente rispetto alla nascita ufficiale del rock come rock and roll, no? E invece appunto quanto invece rock ha sperimentato con varie forme e con vari contenuti dentro appunto queste sortite uscite che appunto eccezionalmente crearono un nuovo suono. Ci sono anche i primi Kraftwerk, quelli di Trans Europe Express, conosciuti appunto come creatori giustamente delle musiche techno ritmate, quindi i Kraftwerk che iniziavano il battito, e qua veramente c'è la proto, e quindi come dire, perché fare arrivare a parlare di techno attraverso l'improvvisazione radicale, perché i primi lavori di Kraftwerk, i primi battiti legati poi a quello che sarà appunto un'evoluzione, uno sviluppo ulteriore, soprattutto appunto proprio sulla battuta che crea appunto il suono di Kraftwerk, anche il mito di Kraftwerk, fondatore appunto della delle musiche elettroniche techno. Beh, nell'improvvisazione radicale, e l'abbiamo sentito dentro Mev, in una ritmicità quasi tribale, un tribalismo però molto urbano, in AMM più marcato in termini di quasi tamboreggiamento guerresco, si potrebbe dire, o momenti insomma più astratti, però anche qua appunto una ritmicità che c'è in Nuce ed esce fuori anche in maniera dirompente in altre parti, un gruppo di improvvisazione con anche qua i battiti che poi diventeranno momenti decisamente evocativi, se pensiamo a Gruppo di Nuova Consonanza che sonorizza i film, momenti terrificanti di alcuni film come Un tranquillo posto di campagna di Petri, dove il battito è un battito che fa paura di fatto, e quindi ci riporta anche dentro un altro modo di sperimentare appunto il battito e la battuta di fatto, che nascerà appunto anche attraverso i primi lavori di Kraftwerk. Che qua c'era anche una parte di quello che poi diventerà Noi Zero, una sorta di bootleg che è uscito in questi ultimi periodi. Andiamo proprio a trovare improvvisazione che e ci informa appunto su dei Kraftwerk che attraverso l'elettroacustica e attraverso l'improvvisazione radicale stavano formando poi quel percorso eccezionale che appunto li connoterà e li farà conoscere appunto in tutto il mondo. come informare quello che poi diventerà un'autostrada, nel vero senso della parola, anche forse il giro cosmicheggiante, poi verrà ripreso appunto qualche tempo dopo rispetto al 1970, in cui appunto questa improvvisazione borda Kraftwerk verso quello che è appunto il nucleo poi centrale della loro sperimentazione, cioè quella ritmica, qua partendo appunto dall'improvvisazione. E qua l'improvvisazione se non appunto quella dei maestri ascoltati prima, maestri, cattivi maestri, come volevano essere appunto chiamati i vari nuova consonanza, Mev, M e Kraftwerk, non sono stati, come dire, gli unici tedeschi. Prima accennavo insomma a buona parte dei cosmici che passarono appunto dagli insegnamenti di Stockhausen e ascoltarono molta della musica improvvisativa dell'epoca, e tra l'altro c'era anche in Germania Brotzmann in primis, uno degli improvvisatori radicali più eccezionali di sempre. Magari avremo modo, ma avete già avuto modo e trovate modo insomma tramite 451 frammenti sonori .noblogs.org di ascoltare insomma delle cose di Brotzmann, ma ci torneremo su, come dire, sono musiche che vanno riascoltate, fanno bene insomma. E se appunto Kraftwerk improvvisava, tornando e concludendo appunto con l'Italia, con cui abbiamo aperto appunto con Evangelisti and Company, Electrictus, un progetto strano, veramente strano, di Andrea Centazzo, progetto elettronico da parte di un improvvisatore radicale, tanto dentro le musiche contemporanee, se così vogliamo considerarle, tanto dentro anche il mondo proprio anche del jazz, se appunto anche qua siamo su di binari piuttosto straordinari, anche nel intersecarsi e nello scambiarsi. Electrictus inventa una sorta di via del mondo cosmico, del viaggio cosmico in Italia, attraverso anche quello che è tutto l'immaginario della library e anche ovvio tutto quello che passa dall'improvvisazione radicale, che questa sera abbiamo trovato dentro 451 frammenti sonori, appunto dentro Improvisationen. Ci sentiamo appunto mercoledì prossimo, torniamo il 15. Fate i bravi nel frattempo, è un caldo caloroso, improvvisatissimo al massimo. Saluto da parte di Max Macchia, ringrazio anche il mio ospite Silente, ma che come dire è stato punto di riferimento appunto Silente, ma c'è stato appunto Franco Sacchetti, che saluto ancora per la compagnia, buona, ottima compagnia che mi ha fatto questa sera da queste parti. Ciao, alla prossima.